una cosa che era nei patti all'origine della nostra esperienza, perché noi abbiamo occupato legittimamente questo spazio facendo un contratto di comodato d'uso gratuito con la proprietà. Questo è uno spazio privato in liquidazione e nel frattempo siamo, come dire, abbiamo trovato una convergenza di interessi tra due realtà completamente diverse, una società che ha fini di lucro e noi che siamo un'associazione di mutuo soccorso con tutte altre finalità. Questo contratto prevedeva un rinnovo annuale con preavviso, diciamo, di 2 mesi, se non ricordo male, per un'eventuale transazione o vendita di questo immobile, e tempo dentro il quale noi avremmo dovuto lasciare l'immobile così come era ed è nei patti. Questo momento è giunto, anche se dopo 3 anni, dove con questa spada di Damocle abbiamo comunque avviato queste nostre attività sul territorio con una grande, come dire, forza di volontà, perché appunto investire con un margine, diciamo, temporale così ridotto a volte era scoraggiante. Una struttura completamente degradata, riabilitarla in modo da poterla utilizzare, allargare questo concetto di utilizzo temporaneo a tutte le realtà, siamo arrivati a circa 50 associazioni che ci frequentano ed utilizzano i nostri spazi, è una cosa un po' per testardi, mettiamolo così. Infatti questo è un elemento sicuramente interessante, perché in questi pochi anni Ventipietre è diventato un aggregatore di tante realtà diverse. Ve lo aspettavate? Noi ci speravamo, diciamo che ci speravamo, nel senso che noi non siamo, abbiamo fatto una scommessa che parte dal luogo ma che non vuole chiudersi nel luogo. Noi volevamo creare relazioni, dare possibilità in un luogo che diventasse un ponte, un elemento di scambio tra realtà, bisogni, culture e esperienze diverse, e diciamo che dopo 3 anni possiamo dire che questo obiettivo è stato raggiunto. Verifichiamo se questo patrimonio che noi vediamo e auspichiamo, come dire, essere consistente, avrà la forza di continuare questa esperienza che, come dire, è nomade dal punto di vista del luogo, ma è profondamente stanziale, o meglio identitaria, dal punto di vista delle relazioni. Che percorso farete ora? Cercherete un altro posto? Come funzionerà? Certamente noi cerchiamo un altro posto. Con la proprietà siamo persone, come dire, che rispettano i patti, perché noi di questa differenza ne abbiamo fatto, come dire, un po' il nostro vanto, cioè il provare, nonostante questa tra virgolette precarietà strutturale dal punto di vista della sede, a inaugurare un altro tipo di relazioni. Noi siamo, come dire, sostenitori del riuso temporaneo. La città di Bologna, e non solo la città di Bologna, ha il 20% del patrimonio edilizio in disuso, in stato di non utilizzo, di abbandono, di cui una buona percentuale è privata, la maggior parte è privata, ma c'è anche una percentuale di spazi e immobili pubblici. Quindi è un'ecologia anche, come dire, urbana, dell'abitare, proprio l'essenza del non sprecare territorio, il riuso, proprio come impostazione di stile di vita, coerente con tutti i messaggi che ci arrivano, che spesso, come dire, nascondono con dettami e principi, per carità, buoni, sani, ma minimali rispetto a poi la consistenza che può avere un gesto di questo tipo nel consumo di suolo. Faccio un esempio: facciamo raccolta differenziata, facciamo un controllo e gestione della viabilità, e poi magari lasciamo abbandonati migliaia di metri quadri di territorio per costruire altri spazi che magari non avranno lo stesso impatto. Cioè c'è proprio una perdita di contatto con i bisogni del territorio, delle persone e la reale situazione che insiste sul territorio. Abbiamo avuto una prima assemblea come diretti interessati in quanto soci dell'associazione, che titolari, diciamo, della questione in prima persona, ma essendo una realtà composita dove chiunque ha partecipato, come dire, è persona attiva e in qualche modo importante al di là della forma, ma della sostanza, direi io, nella decisione di questo posto, perché questo posto l'abbiamo fatto non noi come Ventipietre, ma tutti quelli che insieme a noi ci hanno creduto e ci hanno anche tra virgolette utilizzato, perché la scommessa era: venite a fare ciò che vi piace, rispettate solo i nostri principi e scambiamo, come dire, le nostre esperienze per dare risposte molteplici in una direzione però concordata, che è quella appunto del principio del mutuo soccorso, sostanzialmente.